con scritto volevano, cercavano degli schiavi, hanno trovato uomini degni. Abbiamo un po' messo dei volantini in giro per la città da ieri sera e oggi caleremo uno striscione grande su Piazza Bambini di Beslan, e che per chi non lo sa è la piazza della Fortezza d'Abbasso, dove oggi per l'appunto ci sono i camion, dove comincerà il Pitti Uomo, quella rassegna di moda che tutti gli anni a Firenze, insomma, viene esposta alla Fortezza d'Abbasso. Quindi sarà un po' difficile cercare di calare questo striscione, ma noi cercheremo di metterlo. Dopodiché andremo in Ponte Vecchio, ovviamente in centro pieno, per vedere se riusciamo a sensibilizzare non soltanto la popolazione nel ricordo di un triste fatto come la rivolta di Rosarno di 2 anni fa, ma soprattutto per far presente che non è soltanto una cosa legata al razzismo, l'antirazzismo o soltanto un vizio dei migranti, come ultimamente sta venendo fuori, no? Perché se una vertenza o un tipo di problema sul lavoro tocca ai migranti, sembra che a noi italiani o a noi europei non ci tocchi direttamente. Invece, come vediamo, il precariato sta aumentando anche e soprattutto sui giovani tra i 16 e i 24 anni, e situazioni come quelle di semischiavitù, non soltanto per quanto riguarda il bracciantato, stanno aumentando man mano che andiamo avanti. Quindi secondo me cercheremo di fare in modo di sì ricordare la data della rivolta, ma per far sì di mettere in testa alle persone che non ci siano altre rivolte, perché ovviamente le rivolte portano soltanto a un imbarbarimento delle leggi, a un imbarbarimento degli organi istituzionali. Quindi noi vogliamo far presente che non è soltanto un qualcosa legato ai migranti, ma è una cosa che riguarda purtroppo tutti. Sì, assolutamente d'accordo che riguarda tutti. Infatti le iniziative oggi pure nella Piana di Gioia Tauro ha visto anche la partecipazione di altre, appunto, comunità, di altre associazioni di lavoratori, insomma, che cercano di solidarizzare, ma non tanto appunto perché solo immigrati, quanto perché facenti parte di un'unica classe, che poi ha delle problematiche, diciamo, diverse, ma facenti poi capo ad un unico problema più grande. Quindi su questo, insomma, siamo perfettamente d'accordo. Senti, proprio in riferimento al razzismo, tu parlavi prima di razzismo, e Firenze appunto ultimamente è stata scena a livello mediatico, no? Infatti oggi, a seguito di questa iniziativa, noi abbiamo un'altra come Firenze Antifascista, che praticamente andiamo a volantinare per quanto riguarda il discorso di chiudere Casa Pound e di chiudere tutte le realtà fasciste presenti non soltanto in Toscana o a Firenze, ma anche in Italia, perché ovviamente generano mostri come Gianluca Casseri, e non sono altro che questo. Quindi noi, a seguito di questo, andiamo con dei volantini di Firenze Antifascista, penso sia la prima volta che succede, però ci è venuto in mente di fare questo. Andiamo dai lavoratori ambulanti in centro, che per la maggior parte sono senegalesi, a sensibilizzare sul discorso dell'antifascismo a Firenze, perché ovviamente chi viene a vivere in Italia o chi va a vivere all'estero normalmente dovrebbe avere una nozione di quello che è, sì, il modo in cui come si vive, ma anche di quelle che sono le problematiche, perché purtroppo dopo 20 anni di politiche xenofobe ci troviamo a dover affrontare un discorso come il razzismo, che dovrebbe essere debellato da tantissimi anni, e invece non è così. Allora noi oggi cosa facciamo? Facciamo questo ricordo di Rosarno, l'abbiamo legato anche alla Firenze Antifascista, proprio a seguito dei fatti di sangue successi il 13 dicembre a Firenze. E da ora in poi non c'erano una serie di volantinaggi fino al 4 febbraio, che è la data in cui Casa Pound, Casa G, Popolo delle Libertà, addirittura hanno invitato Giorgia Meloni, verranno a Firenze a fare quella solita manifestazione farsa delle foibe. Quindi da qui al 4 febbraio faremo una serie di volantinaggi perché cercare di coinvolgere sull'antifascismo e l'antirazzismo, che sono due cose che vanno praticamente a braccetto, e i ragazzi senegalesi, i venditori ambulanti, le persone comunque che sono comunque vittima del razzismo e del fascismo in generale. Quindi abbiamo una giornata piena, diciamo così. Ho capito, perfetto. Partiamo oggi dal Rosarno e finiamo con la Firenze Antifascista, e comunque sono due cose che secondo me vanno strettamente collegate, perché aggiungerei io anche l'anticapitalismo, visto appunto il tipo di lotte che si stanno portando avanti appunto anche lì nella piana di Gioia Tauro. Quindi sono tre termini che poi devono essere collegati sia nelle analisi e poi per fortuna anche nelle iniziative, come ci stai raccontando. Va bene, ti ringraziamo molto per la corrispondenza. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No, niente, era solo questo, e comunque a seguito dell'iniziativa ce n'è un'altra, ma comunque diventa tutta un'iniziativa, ed è bene sia così. Magari d'ora in poi, se fossero più legate insieme a livello nazionale in generale e a livello anche locale, dove sappiamo ci sono molte difficoltà di tenere insieme le varie associazioni o comunque centri sociali o roba del genere, bisognerebbe cercare di fare tutti un passo indietro per andare avanti contro il razzismo, il capitalismo e il fascismo. Va bene, grazie a voi. Ti ringrazio ancora per la corrispondenza. Ciao. Ciao.